Allora, io sono la Renata, ecco, abito qua, a Tenno. Vi devo dire anche la mia età? Sì. La più giovane. Sì, la più giovane. 66, 87. Io sono 77. Allora, e noi abbiamo cominciato assieme ai miei fratelli a fare già i lavori di campagna. La vita era diversa. La vita era molto diversa, molto diversa. Dai 6 anni in su si aveva un compito specifico. Quella da 6 anni andava per le strade con una mucca al pascolo. E il latte che produceva la mucca era molto importante perché erano i panini per l'intera famiglia. 6 anni. Io qualche volta la perdevo anche la mucca. E povero, veniva mio fratello o mio papà a cercarla. Ecco, tante di quelle volte, veramente. Allora, venendo un po' più grande, ogni anno che passava c'erano dei lavori diversi. Conforme l'età c'era il lavoro. A 11 anni c'era la stagione da fare. La stagione perché in casa la campagna era poca, il bestiame non era molto. E tutti dovevano contribuire al mantenimento della famiglia. Gli alberghi, sì, a far sui letti, a portare in tavola, no? Mentre loro, la zia Irma, cominciava già ad andare in filanda. Allora sì. E tu hai cominciato a quanti anni? Andare in filanda? In filanda. Dunque voglio ancora 14 anni. Ecco, 14 anni. Si trovava giù a Varignano la filanda, no? A piedi. Ecco, a piedi. Da Tenno a Varignano. Andata e ritorno. E lo stipendio era misero, miserello. Però ecco. Era comodo in casa, perché non ve ne era soldi. Il zio Beppino ha cominciato anche lui a 14 anni. Lui andava con la bicicletta fin giù a Gavazzo. Anche con mio nonno, un mio zio si chiama zio Beppino. Zio Beppino? Che ne tanti, allora ne era tanti. Sì, Beppino. Ne era chissà, sei e e la usava per andare fino a Torbole, che lavoravi nell'edilizia. Sotto l'Angelini di Arco. Però sempre a 15 anni, il lavoro era sempre da aiutare anche in casa i contadini, sì. Perché ci voleva mano d'opera e oltre che andare in giro, quando si tornava su bisognava aiutare. Zio Ezio Iden, forse loro stavano un po' meglio perché avevano tanto bestiame, avevano tanti campi, tanto fieno. La malga aveva anche, né? E avevano la malga. Che dopo, ecco, che cos'è la malga? Il zio Ezio vi racconta della malga. L'estate pareva le bestie in montagna. In montagna. Ezio Bavossi. Ezio. Sì. A Calità, 73 anni. I miei nonni, papà di mio papà, avevano la malga su in Misone, sopra il lago di Tenno. E l'estate si andava su in malga. Io a 2 anni e mezzo mi hanno portato su in malga. Cos'era la malga? La malga era lì dove c'era la casina, dove facevano il formaggio, e c'era su le mucche. E custodiva le bestie. E custodivano le mucche, perché era su mio nonno, era su mia nonna, era su mia zia. Dopo mio papà continuava ad andare in giro avanti perché aveva da stare qua anche a segare, a fare i lavori di campagna, perché bisognava segare per l'autunno e avere il fieno per l'inverno, ecco. Prima di portarle su in montagna, le portava qua di buono un mese, 2 mesi in San Pietro. E dopo andava su in Misone, in Malga, e dopo ritornava e resteva lì ancora lì. Finché nevicheva. Finché nevicheva se stava su in San Pietro. Che allora nevicheva, veniva tanta neve. Però non sai che ti chiami come il mio nonno. Sì, quando che aveva la tua età, Carlo, un po' più grande, neva con le bestie di una famiglia qui, le pareva sulla mattina in montagna qui, una montagna bassa, e dopo la sera quando che tornava in Mendrio mi toccava anche a mungerle, e aveva 9-10 anni. Allora si mungeva a mano. E una volta, che era una bella bestia, la faceva un bel secchio di latte e aveva come una carregota piccola, scagnelli. E ne sentiva in giù. Quando ho quasi finito di mungere, la Madonna Peada, la masticcia in calcio, la mamma travia tutto il latte e il secchio le veniva come una berretta. Succedeva quel cose. E dopo ve n'era di quelle che gli metteva Drio il mangiare, il manipolo sarebbe il tovagliolo, no? Un po' più grande, gli metteva dentro i panetti, gli faceva un groppo e te lo deva sul bastone il pollo di Drio. E siccome era in su, mi con le bestie, con le vacche, e dopo che era chi di ragazzi che veniva su con le capre, che era anche 180-200 capre, e tanto che le mangiava queste bestie, noi ne avevamo piloti da 9-10 anni a giocare, no? Quando erano nell'altura lì, venne giù una vacca che la gioca che la metterà per aria il manipolo dei panetti e una mangia il pan, la camisa. Quando si è messo da dosso di Belvedere non era più niente. Io mi chiamo Irma, ho 80 anni, adesso sono più grande e posso raccontarvi. Dunque, nelle case di Tenno tutti avevano le capre e c'era il pastore. Il pastore era un ragazzo o due, erano fratelli. L'estate venivano con sto corno, andavano dentro in fondo al paese e suonava il corno. Le capre venivano fuori dalle stalle, passava tutto il paese e le capre tutte, e aveva non so quante capre, sarebbe stato 180. Sì, tante. E andavano in montagna la mattina, sempre col suono del corno. La sera tornavano del ritorno, suonava il suo corno e le capre tutte alle sue case. L'inverno le capre erano a casa perché nel monte non c'era le foglie così. Allora andavamo a pascolo, eravamo bambini, Si andava a pascolo con le nostre capre fino che veniva ora di ancora. Però il suono del corno c'era. Perché usavate il trombone invece che il fischietto? Sai che cos'era il corno? Era tipo una conchiglia. No, era il corno, le corna di una bestia, una corna che magari lungo, e soffiavano e facevano un strano rumore, così. E allora le capre andavano tutte, che restano presso, tutto a casa sua. E anche noi bambini giocare, si è giocato poco, perché c'era sempre da fare. E anche la sera ci trovavano queste famiglie e facevano il filò. Sapete che cos'è il filò? Sapete che cos'è il filò? No. Si trovavano in una stalla, una cucina, una stalla per stare il caldo. E i vecchietti, quei più anziani, per far tacere i bambini, raccontavano le storie. E le storie, sai che cos'erano? Un morto, un spirito, così i bambini avevano paura e non andavano più a dormire, sempre. Il lupo. Mi piaceva andare a dormire dalla nonna, perché c'era la guerra allora, e nella casa nostra avevamo i sfollati. E noi andavamo con la nonna nel letto, e ci piaceva. Ci faceva dire tutte le preghiere la sera, poi ci raccontava le storie. Le storie erano sempre di una ragazza che faceva le scommesse, che andava al cimitero e filavano la lana col fuso e dovevano piantare il fuso su una tomba di notte. Mi te conto robe che dopo vi spaventate. No. Sai che una volta nella stalla del papà di mio papà era entrato un orso e ha sbranato due pecore. Ma dai, E il papà di mio papà l'ha lasciato su un ramo di un albero altissimo. Cosa? Ma pensa. Cosa? E sai cosa facevamo anche la sera? Si scartocciava il grano turco, tiravano via le foglie e si trovava in un, noi dicevamo l'era, era un locale, l'aia ti guardi sopra, e lì c'erano papà, le mamme, zii, amici, tanti, e si metteva e si cantava la sera, era bellissimo. Dopo cuocevano una pignata di castagne lesse e un forno pieno e dopo si mangiava le castagne. Ma siccome erano tanti e le castagne facevano presto, allora cuocevano anche una padellaccia di rape lesse E come si mangiava? E che buona che era! Era bello così, sai? Noi non avevamo giocattoli, noi si giocava così, si stava. Però io adesso, se ho nostalgia, è da allora, anche se non avevamo niente. Perché si viveva bene, tutti assieme, sempre che si salutava. Sempre una famiglia, come una famiglia. Anche le donne andavano a lavare alla fontana, non la lavatrice, e si andava alla fontana. Magari litigavano perché una le sporcava l'acqua, però, e come che era bello! Ma chi ha un ricordo della piazza di Tenno, questa meravigliosa piazza che avete? Alessio. Alessio, l'era, perché lui l'era il ritrovo di voi per giocare. L'era. E dopo anche l'era non era così, l'era bianca, l'era bianca, l'era terra, no? Era terra. E lì la mattina tutti quelli che avevano le bestie le pareva lì a bere, no? Perché non aveva mica l'acquedotto non c'era l'acqua in casa, E allora ognuno pareva lì le bestie che era scarichi dappertutto, perché le bestie le faceva quel che le aveva da fare. Che giochi facevate? In forma della stagione si faceva prima a nascondiglio, dopo le fevemi i quadri, saltava in là, non so come gli diceva. La campana. Le palline, facciamo una buca in terra, dopo giocavamo con le palline, col cerchio. Con forma la stagione si faceva. E anche con la corda. Anche con la corda si saltava, con la corda. Vecchi ricordi che adesso di bosso è sparito. E l'inverno? La televisione sta alla rovina. E l'inverno veniva tanta neve, avevano le slitte, partivano chi sopra il paese, perché la strada era bianca, le macchine non ve ne era, passava la corriera, che gli diceva la patatera perché la neve dentro a Fiave, dove che ha le patate. E da Stradon la sera partivano con queste slitte e neve fin giù alla volta là, sopra Colonia, facevano 2 o 3 viaggi in una notte e ne divertivano così. Era Stradin che abitava qua e noi che facevamo le slitte sui stradoni, no? E allora le macchine, anche le persone, le neva in terra, perché veniva tutto il ghiaccio, no? E allora ne le peteva. Noi altri ne le facevamo nonno, Tu roba fatta in casa. Noi altri le facevamo dentro col Berto Bleggio dentro ai buricci. Ecco. Quelle, tu che dicevi le palline, si gioca ancora a scuola con le palline? No, facevamo una buca in terra e dopo... Sì, ma si gioca stranamente. Ha giocato ancora? Erano le biglie. Con le biglie? No, no, biglie, ma erano palline piccole, sì, sai? Sì, ma non era mica la televisione. La televisione veniva nel 68, mi pare. La nostra le comprava una dei primi del 68, mi pare. E era bianco e nero, non era mica colore. E se no che era lì a radio... col giradischi e la sera in qualche era si ballava. Se era qualcuno che suonava la fisarmonica si ballava e dopo si andava a letto. Ci sono ancora le mucche? Sì, tesoro. Sì. Ci sono, però sono alla stalla. È notte adesso. Vedi com'è, signorina, una volta c'erano le mucche in tutte le case. Era poche le case qua a Tenno che non avevano una mucca o 2 o 3. Invece adesso ce n'è una sola, come alle ville ce n'è una sola stalla, grossa, però ce n'è una sola, hai capito? E per le case non c'è più niente, né capre, né conigli, né galline. Questa pecore. Era sotto era la stalla e qua il fienile. Sì. E la stalla abbiamo dovuto spostarla fuori del paese, perché adesso l'odore dà fastidio. Ah, che sta l'evoluzione della nostra giovinezza adesso. Tutte le case le aveva. Sì. Ed è fuori delle porte che erano le concimaglie, no? La grasa allora non la spussevano perché la aveva tutti. L'etame. L'etame. La aveva tutti e allora non sentiva neanche l'odore. Poi anche quando era la vostra età, in casa, la primavera, c'era il bacco da seta. Ah, sì. E bisognava andare a fare le foglie di Bondelgelso. Hai capito? E allora per averli una settimana prima, lì sotto la volta di nord, nella zona di Colonia, avevamo degli ulivi e intorno c'era i gelsi, e andavano giù con la cesta e mettevano le foglie bene e dopo venivano su, le dava da mangiare ai bacchi da seta. Quando erano piccolini, poca allora. Sì, erano piccolini, piccolini. Era come dei vermetti. Erano. E dopo diventavano grossi, mangiavano, riempivano le case, in cucina, se aveva i cameroni sopra. E dopo facevano i bacchi da seta, li portavano su il solaio con l'erica, era l'erica, il fattucci, gli metteva l'erica. Delle cose, l'erica secca, e loro facevano i bozzoli, le galette, i bozzoli. Dopo li portavano alla lega, li mettevano i bozzoli nei forni, li asseccavano, perché altrimenti facevano il buco e rompevano tutti, no? Poi portavano la filanda, io ho lavorato in filanda. C'erano grossi paioli di acqua che bolliva e si mettevano giù e facevano il filo. E c'erano tutte queste donne, 120 eravamo, solo donne. Mettevano magari 10 bozzoli, se lo volevano un po' più grosso, 4, dipendeva da come volevano la seta. Le matasse della seta. E io lavoravo a attaccare quella che si rompeva. Se si rompeva, perché era facile che si rompeva. In principio avevo fatto le ragazzine che andavano dentro con quest'acqua, con questi paioli, si metteva giù e dicevano le squattine, perché prendevano su e passavano a quelle donne di là. Quelli erano un po' più fortunati perché avevano le mani asciutte. Ecco, il bacco da seta era una delle entrate. Prima entrata, entrate. Veniva del luglio. Le prime